Aveva ricevuto un invito a Porto e vi si recò. Gli avevano preparato, come si usa in questi casi, un programma fitto di visite in cantina e di assaggi. Era estate e le giornate erano calde. Il primo giorno iniziò al mattino presto, con la prima visita. Fu portato nei vigneti, poi sull'Aia, infine in cantina. All'uscita il sole era alto nel cielo e scottava. La seconda visita si svolse come la prima, ma il caldo era diventato quasi insopportabile e Veronelli anelava ed era impaziente di raggiungere, terminata la visita all'aperto, il fresco della cantina. Nella terza visita, dopo pranzo, in un calore assoluto, Veronelli chiese di sospendere il tour perché era sfinito dal sole e dalla temperatura. Si scusò e al limite delle forze si fece portare in albergo. Per fortuna un vecchio condizionatore in camera dimostrò di funzionare. Si assopì finalmente al fresco e dormì alcune ore. Si svegliò verso le 8, si fece una doccia e si sentì rinato. Quando vennero a prenderlo era ora di cena. Salì in auto e la trovò finalmente fresca, non più rovente come durante il giorno. Salirono su una collina e sentì l'aria fresca che lo accarezzava. Giunsero a destinazione e, sceso dall'auto, guardò verso un muro coperto di fiori in cui si stagliava una porta. Da quella porta uscì una donna dalla carnagione olivastra, capelli corvini ed occhi verdi, che gli venne incontro e gli fece capire che era lui l'ospite d'onore. Entrarono e passarono nella terrazza del ristorante che dominava il tramonto sulla valle del Douro. A cena erano in 6 e la conversazione si svolse piacevolissima tra storia e filosofia. Veronelli si sentiva veramente rinato. Intanto veniva servito il vino e poco dopo portò il bicchiere al naso e assaggiò. Quel vino lo colpì, gli sembrò straordinario. Chiese ai commensali di che vino si trattasse, ma nessuno seppe rispondere. Allora cercò lo sguardo della donna che glielo aveva servito e finalmente lo incontrò e con lo sguardo le chiese: «Che vino mi hai dato?» E lei, sempre con lo sguardo, gli rispose: «È il miglior vino che ho scelto per te, per una serata memorabile». Veronelli non chiese più nulla, non volle sapere di più.